Allora, grazie a voi che siete intervenuti, grazie alla Fondazione Basso che ha promosso questa iniziativa, come già il volume che penso tutti voi conosciate e che sta all'origine di questo lavoro. La sala è particolarmente piena, piazze piene, urne vuote. Sala San Liro. Allora, vi raccontiamo brevemente. Esatto, che leader. Allora, vi raccontiamo brevemente che cosa volevamo fare con quello che state per vedere. Nel 2003 abbiamo presentato il volume a stampa e poi racconterò anche un po' il volume chi c'era. Quello che abbiamo cercato di fare è una cosa semplice e tradizionale, e cioè una guida archivistica tematica, genere che in Italia ha una forte tradizione, che però non fosse solo uno stato dell'arte, ma che partecipasse indirettamente alle modalità con cui la storiografia affrontava e affronta questo nodo, in particolare rispetto alla gerarchia delle fonti utilizzate. Su queste tematiche, ma non solo su queste, c'è una storiografia senza archivi, una con certi archivi e un'altra con gli archivi. Quindi il primo obiettivo era far emergere questa presenza così disseminata di queste fonti archivistiche, metto anche un po' tra virgolette la parola archivistiche, disseminazione che è tipica, non solo in questo ambito, del particolarismo conservativo italiano. E metto tra virgolette, diciamo, questa parola archivistiche perché c'è un aspetto un po' eretico di questa parola in queste fonti. Secondo, ci sembrava utile dare una dimensione nazionale a questa ricognizione per superare un limite oggettivo che aveva la presenza in rete e non delle notizie su queste fonti. Ogni istituto ovviamente racconta se stesso, poi aspetta ad altri soggetti tirare le fila o tessere le reti. Su queste tematiche ci è sembrato naturale che l'iniziativa partisse da un soggetto privato, ma abbiamo fortemente cercato al tempo una complicità, anche questo tra virgolette, nell'amministrazione statale, e ringrazio ancora Antonio D'Antoni Litta, che è presente anche oggi, trovando nella Direzione Generale per gli Archivi un luogo istituzionale sensibile alle indagini nelle aree di confine con le fonti archivistiche classiche. E quindi che cosa c'è nel lavoro del 2003 e ovviamente anche nel suo, diciamo così, riversamento in ambiente digitale? Ci sono fonti statali e fonti private insieme, come al solito, per offrire visioni diversificate ma non mai speculari della realtà documentata. Queste fonti, come sa chi naviga nei siti di reti archivistiche e non, hanno ovviamente sistemi di rappresentazione differenti al di là delle modalità grafiche ormai normalizzate con le quali li presentiamo, e quindi le solite cose, alberi rovesciati, tutte queste frasi anche un po' senza senso. Tra l'altro forse il termine normalizzazione in questo ambito suscita qualche sospetto, però insomma ci siamo capiti. Noi qui diamo per acquisito il melting pot archivistico, un mondo in cui le questioni disciplinari dell'ordinamento e della descrizione danno esiti inevitabilmente differenti e dove riteniamo a maggior ragione occorre aggiungere ai canonici punti di accesso conservatore, complesso archivistico, produttore, quello per descrittori o soggetti. Lo sforzo che abbiamo fatto al tempo può trovare adesso, pensiamo, un esito più maturo, un'esperienza che nel frattempo si sono consolidate, prima fra tutte quella della rete archivi del Novecento, all'interno del quale è attivo un gruppo di riflessione su queste tematiche e che pensiamo sia il luogo un po' naturale di evoluzione di questo nostro tesaurus, diciamo così, molto specialistico, tesaurus, insomma, elenco di descrittori molto specialistico. E non mi dilungo molto, soprattutto sulle cose che ci sono, adesso vediamo un po' come l'abbiamo strutturata e cerchiamo anche di dire cosa esplicitamente cosa pensiamo che manchi in questo lavoro che presentiamo, perché intanto per coscienza dei propri limiti, anche un po' come un programma per il futuro immediato, e anche, diciamo, come una chiamata di responsabilità comune, perché questi lavori, diciamo, quando uno pubblica su carta è un prodotto fermo, no? Sta lì e si saprà fra 100 anni che nel 2003 la situazione era quella. Invece questi prodotti digitali, che hanno proprio come obiettivo dichiarato quello di tenersi aggiornati, no? Se vogliono essere una finestra su questo mondo, hanno bisogno in qualche modo di un'iniziativa un pochettino strutturata, non tantissima, un pochettino strutturata, e quindi anche, diciamo, la Costituzione di occhi sul territorio che rilevino molto più precisamente di quanto abbiamo fatto noi al tempo e anche in questa versione, che comunque qualche aggiornamento ce l'ha rispetto a quei dati, una situazione che in certe parti del paese è anche molto in fermento. Noi stessi, diciamo, sappiamo di conservatori nuovi, di fondi nuovi che non siamo riusciti a mettere ancora dentro a quello che vedete. Oltre al fatto che vorremmo che dentro a questo sito ci sia anche qualche apparato di contesto un po' più speciale, e cioè non solamente descrizioni di fondi, ma anche descrizioni di contesti, dei soggetti che al tempo furono protagonisti degli eventi, di link ad altri siti che si possono correlare, di bibliografie, insomma, e quello che voi potete immaginare. Questi sono soggetti produttori molto particolari, no? Nella tripartizione classica dei complessi archivistici, produttori e conservatori, sono molto particolari perché sono quasi più dei collector, diciamo dei raccoglitori, no? Però non sono dei raccoglitori collezionistici, sono dei raccoglitori protagonisti, diciamo, che sono stati piccola parte o grande parte in causa degli eventi che questi documenti testimoniano, e quindi sono in parte veri archivi e in parte raccolti di documenti. A maggior ragione, diciamo, tutta questa variegata eresia rispetto ai canoni tradizionali della disciplina deve trovare anche delle forme di rappresentazione, speriamo, un po' nuove. Quello che abbiamo cercato di fare è quindi portare dalla carta all'ambiente digitale i contenuti del nostro censimento. Allora, diciamo, ci sono tre modalità di esplorazione, di consultazione. Ringrazio il valletto Grispigno. E quindi abbiamo cercato di privilegiare comunque come default, diciamo, come immagine all'apertura, l'elenco dei soggetti conservatori. Non tanto perché, diciamo, lo riteniamo giusto proprio in particolare in questo contesto, perché è un po' la caratteristica, che dicevo, della grande disseminazione di questo tipo di fonti sul territorio, sia presso soggetti statali che pubblici che privati di diversissimo tipo. E quindi ci è sembrato opportuno mantenere questa modalità di esplorazione in primo piano. Ogni istituto, diciamo, può generare o con il più, dico delle cose anche abbastanza banali, insomma, l'elenco dei fondi conservati, cliccando poi o sul fondo o sull'istituto si apre una scheda di reference, di riferimento, che può essere richiamata anche a partire, diciamo, dai singoli fondi, lì in alto A, per vedere contestualmente sia l'istituto che la... Se funzionasse, ha funzionato. Abbiamo sconfitto Bill Gates 1-0 per noi. E allora, diciamo, questa è una modalità abbastanza tradizionale. Adesso non mi dilungo in che tipo di informazioni vedete, ma non è niente di rivoluzionario. Ecco. In generale, abbiamo cercato di mettere anche delle informazioni contestuali sull'ultima modifica, perché pensiamo che questo sia un dovere se uno vuole, diciamo, offrire un dato e, diciamo, dare anche il contesto dell'aggiornamento, no? Secondo, è la cosa sulla quale, allora, diciamo, vabbè, qui non c'è moltissimo da spiegare, se non che in qualche caso dove l'abbiamo reperita, no? Se c'è una risorsa digitale esterna rispetto alla descrizione alta di fondo di istituto e fondo, c'è il puntamento a un inventario digitale eventualmente disponibile o dentro a reti complesse o dentro ai siti dei singoli istituti, ce ne sono già 3-4, che hanno pubblicato online secondo le modalità più diverse, e devo dire che è anche un'esperienza interessante vedere i mille modi in cui ci si può anche impiccare nel presentare descrizioni archivistiche, però ognuno la vede in un certo modo, e qui, diciamo, c'è un accesso diretto. La seconda modalità è una modalità che al tempo suscitò qualche polemica e per la quale noi ringraziamo sempre ancora la sensibilità di Torino, di Antoni Litta, che ci permise anche con un contributo importante di percorrere, diciamo, queste strade. Per cui qui rispetto al volume a stampa è stata fatta un'opera di semplificazione legata sia alle modalità proprio, diciamo, informatiche di rappresentazione, che forse anche per, diciamo, l'accesso a un pubblico diverso da quello di un volume a stampa edito in una collana della Direzione Generale degli Archivi. E quindi, a parte i rimandi a voci di primo livello, non c'è stata una strutturazione, come si dice, nidificata di una voce di primo livello più una di secondo esplodibile, ma direttamente una stringa, va bene, che comprende voci di primo livello e voci di secondo livello. Di fatto, cliccando su una qualsiasi di queste cose, qui ce ne stanno solo due, si scatena una query che richiama i nomi dei fondi che sono stati marcati con questi descrittori. Una cosa che dico esplicitamente è questa: sulla singola scheda non c'è in chiaro, non ci sono in chiaro i descrittori marcati, e questa è, diciamo, la stessa scelta che fu fatta per il volume a stampa. Quindi chi accede a questa scheda venendo dall'esplorazione che avete visto prima o da una ricerca per parola chiave, per parola libera, non trova il descrittore marcato, perché abbiamo ritenuto che questa fosse una query specifica, diciamo, che fosse un punto d'accesso. In più c'è effettivamente un problema, lo dico perché il gruppo di etnicizzazione del Novecento, di questo si è parlato, c'è un problema legato al fatto che giustamente quando si pubblicò al tempo voi insisteste molto perché noi mettessimo dentro la descrizione, diciamo a testo libero, delle parole che richiamassero poi i descrittori formalizzati. Questo è stato fatto il più possibile, va bene, ma effettivamente ci sono dei fondi, per esempio quelli degli archivi di Stato, in cui la ricorrenza delle tipologie documentarie non mette in chiaro poi i descrittori tematici, che andrebbero quindi replicati come puro elenco, va bene? E quindi tanto vale che chi preferisce, chi privilegia quell'accesso, lo fa direttamente da uno strumento ad hoc. Vediamone qualcun altro, insomma. Abbiamo uno di questi più classici, l'arte sociale. Oh, qui un'altra tra virgolette criticità. Ecco, questo ci possiamo anche un po' fermare. Quando dicevo il melting pot archivistico, qui si vede chiaramente, no? Cioè si vede un insieme di denominazioni riportabili a contesti statali, a contesti sindacali, a contesti di raccolte personali, c'è veramente di tutto. Una cosa che ancora non è stata fatta è dare un default di criterio di ordinamento di questo elenco. Cioè voi vedete che non c'è praticamente nessun criterio, no, per ora, perché in realtà il criterio nascosto è quello dell'ordine degli istituti. Per fare un ordine alfabetico bisognerebbe fare ancora qualche cosa sulla base dati, rivoltando i cognomi, i nomi, e poi ci sono denominazioni che nascondono, cioè che si capiscono solo nel contesto del soggetto conservatore. Quindi, diciamo, abbiamo fatto ordine il più possibile, però un po' di disordine abbiamo lasciato ancora, no? E vorremmo ragionare e sentire anche voi, insomma, su questo. Non sono mai liste così lunghe da non essere dominate con una videata, di fatto, e immagino che chi è interessato a un descrittore tenda a vedere, diciamo, tutte le occorrenze, no? Non è come dentro un motore di ricerca indiscriminato Google, per cui dopo 10-20 pagine tu lasci perché pensi che qualcuno ha deciso per te che c'è una densità informativa maggiore nei primi risultati di quelle successive. Qui non è così. Qui non è così, diciamo, la democrazia nell'elenco, nel risultato di ricerca può essere data solo da un dato oggettivo, per esempio l'accorpamento in carte di persone, carte di enti, insomma, oppure nell'elenco alfabetico, insomma, poi vedremo. La terza modalità, che ovviamente nel volume a stampa non poteva esserci, è quella della ricerca. Abbiamo pensato di fare una cosa molto semplice, cioè, scusa, puoi tornare indietro a parole chiave? Ecco, un risultato qualsiasi. Per non perdere una caratteristica dell'indice dei descrittori del volume a stampa, che in realtà mischiava descrittori e riferimenti geografici, specificando per esempio il movimento studentesco a Parma, Milano e quello e quell'altro, se ne prendi uno, diciamo, che dà più risultato, tipo Nuova Sinistra in generale, quello che è. Bene. Abbiamo cercato, diciamo, di supplire a questo svantaggio, mettendo la possibilità di raffinare la ricerca, e cioè estraendo da queste schede solo quelle che contengono una certa parola. In questo caso, ovviamente, se io metto qui dentro una parola che è un termine geografico, è come se avessi avuto un annidamento di questo risultato di ricerca per termine geografico, ma in realtà posso anche limitarlo con una tipologia documentaria per sapere qui dentro dove ci stanno i volantini o dove ci stanno filmati e quant'altro. Quindi qui è possibile raffinare qui dentro, La ricerca invece è quella a testo libero, è una ricerca che cerca in tutti i campi del database, quindi anche nelle intestazioni delle denominazioni, perché un'altra cosa che evidentemente manca è un elenco alfabetico dei soggetti produttori o dei soggetti conservatori, nel senso dei raccoglitori, no? Delle carte. Perché abbiamo pensato che anche qui non fosse così importante avere una lista in cui trovare se Tizio e Caio, no, ha raccolto delle carte. Di fatto lo posso cercare anche da qui, e in questo senso qui può uscire fuori che Tizio ha raccolto delle carte e poi è coinvolto in qualche altro versamento ad altro titolo. La ricerca si fa, facciamo un esempio così. Poi diciamo le istruzioni stanno in tre pannelli che voi vedete là sopra e ve le andrete a leggere se volete. Captatio benevolenzie. Esatto. Adesso sei costretta c'è un highlight, insomma, sulla parola cercata, e c'è la possibilità di tornare anche all'istituto conservatore, oppure se torni al risultato di ricerca, diciamo aprire la scheda intera che sta nel contesto, dove ci stanno anche estremi cronologici, consistenze e le note, diciamo, sull'ordinamento dell'inventariazione e quant'altro. E, vabbè, diciamo, ho parlato forse fin troppo, insisto solamente su un aspetto, cioè di cercare di dare un futuro a questo piccolo contributo che abbiamo cercato di mettere in piedi, perché fermarci qui non avrebbe veramente senso. Quindi cerchiamo contributi di idee, magari non dico il 5 per 1000 di destinarla a questa cosa qua, però invito comunque a consigliare la Fondazione Basso anche in questo senso, e aspettiamo i vostri commenti. Grazie. E discassi. No, Crispini ha fatto il balletto. Oggi era come un balletto. No, ve ne andate, no, nel senso ve ne andate dal tavolo. Questo si può trovare su internet, praticamente, sì, su dal basso. Adesso, scusi, no, cioè, ovviamente abbiamo dalla fondazione, lo davo quasi per scontato, ma mi ha preso qua, cioè dalla fondazione Basso c'è una pagina sulla Guida Movimenti dove si può accedere sia alla pubblicazione cartacea messa online sul sito della Direzione Generale degli Archivi che a questa pagina. Comincia te, che hai preso il tavolo, comincia da te. Pure. Volete un moderatore? No, comunque, credo, questa cosa io non la sapevo che c'era questa, mi sembra molto interessante. L'unica cosa che posso dire, proprio nello specifico, siccome spesso negli ultimi tempi gli archivisti hanno sottolineato un fatto, che tutto quello che si trova in internet in realtà è sottoposto a una precarietà assolutamente incontrollabile, no? Nel senso che poi possono esserci delle realtà che chiudono, che non sono più ecco, quindi mi chiedevo se voi avevate pensato a creare come delle fotografie, no? Della situazione, per esempio ad oggi, da aggiornare, qualcosa di fisso che possa rimanere come documentazione della documentazione, no? Perché appunto si dice, giustamente, esiste questa cosa magmatica che però non ha la caratteristica che siamo abituati a cercare nei documenti archivistici, una stabilità, la capacità poi di tornare. Ci sono delle cose che oggi ci sono e poi magari dopo un anno, due anni così, sono non più accessibili. Io ecco, credo che, forse dirò due cose su quello che può dare anche la ricerca con le cosiddette fonti orali in relazione alla storia dei movimenti, Tra l'altro molti di questi fondi sono anche fondi che oltre agli archivi, ai volantini, ai giornali così, conservano interviste fatte con i protagonisti, no? Ci sono alcuni, almeno ne conosco alcuni, ce n'è uno qui a Roma, Immagini del presente, non so se l'avete incontrato, quel personaggio, sì, che prima era a Firenze, noi l'abbiamo notificato tra l'altro a suo tempo. E c'è il centro 68, quello di Pistoia, cioè, ce ne sono parecchi che hanno fatto questo tipo di... Perché effettivamente quando si tratta di documentare la storia dei movimenti, la storia dei gruppi, la storia di questa realtà abbastanza effervescente che poi ha durato alcuni anni e poi è sparita, abbiamo di fronte qualcosa di diverso rispetto a quando andiamo, che so io, a intervistare su un avvenimento particolare, cioè qui si tratta di riuscire a sollecitare delle interviste su un periodo abbastanza lungo e poi spesso le persone che raccontano hanno subito nella loro vita, come dire, delle ristrutturazioni profonde in quello che pensavano, eccetera. Questo lo sappiamo, è sempre successo, no? Direi che comincia già con i primi archivi audiovisivi relativi a movimenti. Penso per esempio agli archivi sulla storia della resistenza, no? Allora, cosa abbiamo? Delle grandi collezioni di interviste, spesso interviste che sono state prodotte in certi periodi, diciamo negli anni 70, soprattutto 80, oggi rimangono queste interviste che hanno dei problemi di conservazione perché sono fatte su supporti che ormai si stanno deteriorando, ma soprattutto, questo lo trovano gli storici che cercano di utilizzarle oggi, mancano quelle informazioni di contesto che sono fondamentali per capire un po' il contenuto di queste interviste. Per cui spesso si trova, per esempio, io sto leggendo un libro, un bellissimo libro sconosciuto, Comunisti e Partigiani di Manlio Calegari, che ha utilizzato molte interviste fatte da lui stesso e poi ha utilizzato anche interviste che erano raccolte negli istituti storici della Resistenza Liguri soprattutto. E lui dice che appunto in molti casi l'informazione in qualche modo si perde per la mancanza di questi elementi di contesto. Poi c'è un altro punto importante. Sempre parlo della storia della resistenza perché forse l'ho studiata di più e poi anche perché è qualcosa di più consolidato, nel senso che è stato fatto molto è stato raccolto parecchio materiale. Lui dice, e io lo condivido molto, in realtà questo lo vediamo, lo sappiamo anche noi che abbiamo fatto parte dei movimenti, quindi è una cosa che si ripete, quindi, ma per la resistenza lui dice c'è questo elemento una vicenda che viene vissuta in modo estremamente intenso per un anno e mezzo o due anni, no? A seconda del luogo. E poi su questa esperienza si depositano un'infinità di altre esperienze individuali, collettive, la scrittura di libri sulla resistenza, la resistenza che viene presa dentro un campo politico, come dire, e quindi questo crea la necessità di schierarsi, eccetera. La resistenza che poi cambia ancora nel periodo, quindi la resistenza che diventa qualcosa di estremamente problematico nel periodo centrista. Poi col centro-sinistra c'è un'altra versione della resistenza, anche questa si ripercuote in qualche modo, ha delle influenze sulla vita delle persone che hanno fatto che hanno partecipato, sugli ex partigiani che magari avevano 18 anni, che a questo punto ne hanno 25, poi ne hanno 40, no? E poi si continua, c'è cioè il 68 con una nuova istanza di una nuova lettura della resistenza e avanti fino a Pavone, Santopeli e al presente. Allora, e il problema grosso, dice giustamente Calegari, e sono del tutto d'accordo con lui, è che difficilmente noi riusciamo a capire qualcosa se prendiamo delle interviste, ma anche dei documenti, no? Come dire, fatte magari queste interviste in un momento particolare, appunto mettiamo nel 68, fatte una volta, si va da questo partigiano che a questo punto avrà, insomma, era nato nel 21, nel 68 è un 47enne, gli si parla per una mezz'oretta, per un'ora, no? E poi basta, no? Ecco che lo stesso partigiano può essere intervistato nel 78 per un'altra ora. Quello che in realtà che in questo, con questo tipo di con questa metodologia di intervista si manca del tutto è una capacità proprio di rendere il testimone filologo di se stesso, cito sempre Calegari, o come dice Ronald Grele, che è un grosso storico orale americano, fare in modo che la sua stessa esperienza diventi interessante, lui dice antropologicamente, io direi storiograficamente interessante rispetto proprio agli occhi del testimone stesso, no? Cioè far partire un meccanismo, e questo lo si può ottenere soltanto se le interviste sono numerose, se sono interviste reiterate, se non si va una volta e basta, insomma. E se si riesce a fare in modo che la grande distanza che ci separa da quell'esperienza, no? Questa grande distanza viene in qualche modo apprezzata da noi e da lui, e se riusciamo in qualche modo a fare in modo che il nostro orizzonte, come dire, ermeneutico e il suo coincidano, perché spesso da questo punto di vista ci sono delle discrepanze clamorose, cioè quello che per l'ex partigiano è significativo, con tutte le trasformazioni portate dalla lunga storia, è spesso completamente diverso da quello che ci interessa a noi. A me è capitato di intervistare addirittura dei condannati dal Tribunale Speciale per la Sicurezza dello Stato, e mi rendevo conto che era difficilissimo fargli capire che a noi non ci interessava sapere quella volta quel pacco di volantini dove l'hai messo, ma l'hai messo, l'hai portato a Empoli, ma l'hai nascosto, l'hai messo nell'orto della zia, cioè tutte che per loro era fondamentale ricostruire questi passaggi, no? Di materiali, di persone. A me interessava invece sapere com'è che, a me e credo a tutti quelli che studiano queste cose, mi interessava sapere com'era fatta la loro vita, come entrava questa dimensione politica nella vita quotidiana, che rapporti c'erano normalmente tra di loro, che lavoro facevano, eccetera, eccetera, che scuole avevano fatto, cosa mangiavano. Cioè tutta una serie di cose che non erano assolutamente interessanti in prima battuta per questi che ci raccontavano. Ecco, per quanto riguarda sempre appunto la resistenza, il caso che ho citato più volte di Manlio Calegari, che scrive dei libri bellissimi, però poi li pubblica in delle case editrici assolutamente sconosciute, per cui diventa una specie di rarità filologica. E lui ha scritto questo libro qui, Comunisti e Partigiani, e un altro molto bello che ha un titolo non altrettanto bello, La sega di Hitler, dove in realtà si tratta della mitragliatrice, non si tratta di niente. E quello è ancora di più un lavoro sulla memoria, è proprio, direi quasi, senza che lui, è la descrizione di una ricerca attraverso le fonti orali e fatta attraverso un certo numero di interviste all'interno di una banda partigiana, che poi si concentrano su tre personaggi in particolare con i quali lui va a parlare decine di volte. Cioè alla fine, ecco quello che voglio dire, quello che si tratta di far scattare è quello che a lui succede, che a lui riesce col terzo partigiano di questa serie di persone. Cioè uno che a un certo punto improvvisamente capisce realmente cosa è interessante oggi dell'esperienza partigiana e comincia a un certo punto ad auto-intervistarsi. A quel punto la funzione di Calegari è una funzione, diciamo così, accessoria, cioè lui è riuscito a far scattare il meccanismo, e questo gli telefona magari di notte dicendo: guarda che l'altra volta ti ho detto che in realtà il nostro rapporto con la violenza non era, ho ripensato invece a una cosa che mi ha fatto, e così via. Cioè, e da questo tipo di intervista profonda, no? Per citare anche Clifford Geertz, cioè questa thick description applicata alla storiografia della resistenza, si riescono veramente a questo punto a ottenere delle informazioni molto importanti. Lui dice non tanto sull'esperienza originaria, perché poi l'esperienza originaria rimane largamente come dire, cioè riuscire ad attingere alle esperienze originarie è qualcosa di, come dire, metafisicamente impossibile, un po' una, ma in realtà si riesce a fare in modo che il significato delle parole cominci a sciogliersi, perché noi usiamo delle parole, ma le parole, come voi sapete, non hanno sempre significato la stessa cosa, quindi gruppi di parole, contesti discorsivi hanno significato cose diverse in periodi diversi. Ecco, questa cosa, con questo tipo di intervista prolungata, si riesce proprio davvero a fare, e credo che questo si tratta di fare non soltanto per quanto riguarda la resistenza, anche perché poi ormai purtroppo per quell'argomento lì il tempo è un po' finito, nel senso che ormai abbiamo dei testimoni che sono abbastanza anziani, molto anziani, quindi, ma possiamo prendere, come dire, possiamo in qualche modo utilizzare la lezione che ci viene anche dagli errori fatti, secondo me, nella raccolta delle interviste con ex partigiani, interviste che poi naturalmente hanno tutta la loro validità, ce ne sono migliaia e migliaia disseminate nei vari istituti storici della Resistenza, moltissime non sono state trascritte, inventariate, lette, conosciute, stampate, non solo, ma non sono state neanche salvate su supporti più durevoli, quindi c'è sempre questo. Ma insomma, abbiamo fatto l'errore di fare troppe interviste con troppe persone, di non aver personalizzato il rapporto, di non aver soprattutto fatto scattare questo meccanismo per il quale in realtà il testimone deve diventare in qualche modo storiografo di se stesso, o almeno appunto filologo di se stesso, deve riuscire a capire che quello che spesso i testimoni dicono all'inizio dell'intervista, perché intervista me che non ho niente da raccontare, è una cosa appunto è una cosa che non è vera, e che invece quello che lui ha da raccontare è molto interessante, ma che non necessariamente, per esempio, se è un partigiano, non è che necessariamente ci interessa sapere esattamente dove era lui durante la battaglia, anche quello, per carità, ma vogliamo sapere com'era fatta la vita quotidiana, vogliamo sapere, soprattutto vogliamo riuscire a decostruire tutte quelle cose che sono arrivate dopo nell'esperienza delle persone che ci raccontano, ma che non c'erano allora. Quindi una politicizzazione che spesso è arrivata molto dopo, ma che è difficile. Cioè, la nostra autorappresentazione è il risultato di un processo storico, ma nel momento in cui ne parliamo oggi è difficile riuscire a ricordarci come eravamo da piccoli, insomma, no? C'era il famoso paradosso di Althusser, il cranio di Voltaire bambino, no? Cioè, appunto, il cranio di Voltaire bambino non è possibile, ma non è possibile neanche da un punto di vista non è possibile come metafora, ma non è possibile neanche, è molto difficile riuscire a fare questa cosa, ma non impossibile, no? Esistono degli indizi, però questa cosa la possono fare soltanto i nostri testimoni, cioè una volta che hanno capito cosa ci interessa, e tra l'altro questo interessa anche a loro, perché poi in realtà questa storia della resistenza, della loro partecipazione alla resistenza, con tutte le stratificazioni che si sono deposte successivamente sull'esperienza, con tutti, diciamo così, anche i discorsi che si sono venuti sovrapponendo, questo ha creato una difficoltà per lo stesso testimone di riuscire a in qualche modo a ricordare, ad apprezzare, no? E quindi qui c'è un problema. Queste cose avvengono in modo laterale, ci sono alcuni episodi apparentemente marginali che spesso servono a aprire queste piste, diciamo, le narrazioni che loro hanno fatto e rifatto più volte, no? Altrimenti si rischia di fare quello che poi purtroppo in storiografia si fa spesso, cioè mi ricordo, mi pare Krakauer scriveva prima delle cose ultime, lui aveva dato una serie di documenti a un giovane storico che voleva fare un lavoro sulla Repubblica di Weimar, e lui diceva, il giovane storico aveva, tutti i documenti erano giusti, poi gli aveva dati lui, le date erano corrette, le persone erano quelle, e però la narrazione, il complesso, il racconto era totalmente falso, cioè in realtà non c'era, c'era appunto qualcuno che aveva completamente mancato l'obiettivo, E l'aveva mancato appunto perché non è facile riuscire. Normalmente gli storici sono avvantaggiati dal fatto che i testimoni, quando gli storici scrivono, non ci sono più, e quindi questo cortocircuito non scatta, no? In realtà, ecco, il problema è che se noi riusciamo a fare questi archivi in questo modo, e credo che con l'esperienza dei movimenti abbiamo ancora abbastanza tempo, perché non siamo più giovani, ma insomma forse qualche anno ancora di vita ce l'abbiamo, quindi se ci intervistate, io a questo punto mi metto dal punto di vista dell'intervistato, dovete però far capire all'intervistato questa cosa, cioè bisogna, perché tra l'altro poi voi sapete benissimo che, non so, per il 68 ogni 5 anni si faceva la storia del 68 sui giornali, la televisione, e quindi non è semplicemente, no, c'è questo elemento che è stato vero per la Resistenza, per il 68 è stato ancora più frenetico, no? L'Espresso ogni anno tra una nuova versione di come era stato il 68, no? Poi anche tra quegli anni lì e gli anni successivi è successo di tutto, no? E questo ha portato degli spostamenti, delle ristrutturazioni dell'identità delle persone, eccetera. E tutto questo è difficilissimo da ricostruire. Io mi ricordo che, per esempio, durante un trasloco, una mia sorella trovò un piccolo quadernino di appunti che scrivevo quando eravamo insieme a Torino. E io questo quadernino di appunti, erano delle cose terribili. E io, se non avessi riconosciuto la mia calligrafia, avrei giurato che io questa cosa non l'avevo mai, non dico scritta, ma neanche pensate, no? Allora, voglio dire, cioè, lei mi vuole intervistare, ma se dobbiamo essere intervistati, dobbiamo essere intervistati in modo che queste cose possano emergere, che tutta la gabbia che necessariamente tutti che costruiamo per sopravvivere, insomma, tagliando pezzi di esperienza, ingrandendo altre cose. Tutto questo sì, non potrà mai essere smontato, ma insomma dobbiamo cercare appunto di tornare in contesto, ritornare a capire cosa significavano allora per noi certe parole, anche soltanto questo, come punto minimale. Ora scusate se non sono entrato troppo nella cosa, ma siccome questo è un lavoro che prepara anche anche perché questi documenti da soli veramente sono rischiano di essere molto carenti, cioè la storia di un movimento è necessario che qualcuno la racconti, magari la sbaglierà, magari qualunque storia come qualunque autobiografia sarà un falso, no? Tra virgolette, ma è importante sapere, per esempio i volantini, abbiamo una collezione di volantini, sono democraticamente tutti uguali, ma non è così, cioè alcuni volantini sono stati molto più importanti di altri. Io per esempio mi ricordo di aver prodotto un volantino molto bello che però non è stato mai distribuito perché io non mi sono svegliato e quindi non l'ho portato. Quindi tantissime cose di questo genere che poi stanno dentro la è chiaro che poi chi racconterà l'esperienza la farà appunto con questa, però ecco, credo che per la storia dei movimenti la sollecitazione di una storia da parte dei protagonisti sia molto importante, e con quelle caratteristiche che dicevo. No, ma forse c'ho questo. Ma dunque, io innanzitutto devo chiarire di essere qui, diciamo, in duplice veste, e una di queste vesti mi mette un po' in imbarazzo nel tessere tante lodi di questo lavoro, perché io ho collaborato in piccola parte al censimento da cui nacque la guida, eccetera. Quindi devo dire, mi astengo un po' dal dire che è stato un ottimo lavoro, che c'è tanta roba, perché vabbè, ma il foro interiore alla coscienza prego. No, dunque, la seconda veste invece è quella, diciamo, di storico, di chi in qualche misura si è occupato di questi temi. E quindi vorrei fare qualche riflessione sul rapporto tra lavori di questo tipo, l'utilità di lavori di questo tipo ai fini della ricerca. E innanzitutto devo dire che mi sembra che si debba esprimere, si possa esprimere una notevole soddisfazione, devo dire, per il tipo di lavoro che direi da 20 anni a questa parte è stato fatto in questo campo. Perché con tutta la consapevolezza dei limiti che hanno questi discorsi, a me venendo qui oggi tornava in mente il 1988, perché era il primo, a parte il 78 che era ancora sul limite di una stagione di movimenti che si stava chiudendo, l'88 è stato l'anno in cui c'è stato un certo tipo di produzione storiografica. Ci sono stati alcuni convegni che tentavano, a distanza di una decina d'anni dalla chiusura di quella stagione, di avviare una riflessione storiografica. E ricordo da un lato la soddisfazione perché si iniziasse a parlare di un periodo storico cui tra l'altro molti di noi avevano preso parte, però dall'altro lato un senso invece profondo di insoddisfazione, non tanto perché i lavori che uscivano fossero lavori malfatti. Ormai il libro di Peppino Ortoleva, il saggio sui movimenti del 68, è considerato un piccolo classico ed è un'opera che ha avuto un ruolo molto importante. Per altri versi ha avuto un ruolo importante anche il lavoro di Luisa Passerini, autoritratto di gruppo, con un'ottica completamente diversa. Però ricordo che all'epoca l'insoddisfazione nasceva proprio dal fatto che ci fosse uno squilibrio abbastanza evidente tra ciò che atteneva alla memoria soggettiva dei protagonisti, che quindi riflettevano, mettendo in campo tutta la loro intelligenza, su quei fatti, e un lavoro strettamente storiografico, che invece c'era abbastanza poco. Io ricordo un convegno a Torino fatto proprio nel 1988, a cui forse c'era Marco Grispigni, quello sulle culture e i luoghi del 68. Hai scritto negli atti ma non sei venuto. Ecco, ne è uscito, era organizzato dal Dipartimento di Storia dell'Università di Torino, il progetto era diretto da 3 ottimi storici, Aldo Agosti, Luisa Passerini e Nicola Tranfaglia. Le relazioni al convegno, la maggior parte diciamo, soffrivano di quell'evidente limite. E da allora che si è innescato un meccanismo, una riflessione anche sulla necessità che gli storici avessero a disposizione gli strumenti del mestiere. In parte questi c'erano, perché si sapeva che diversi istituti privati di conservazione avevano raccolto delle carte. Forse non, uno dei primi è stata la Fondazione Feltrinelli di Milano. E tra l'altro devo dire che c'è un fatto curioso che forse ci dice qualcosa anche sulla difficoltà di un approccio storiografico a questi temi, così come si è verificata in Italia, perché chi si è messo a scrivere di queste cose aveva un suo vissuto col quale doveva fare i conti, eccetera. Io credo che uno dei primi lavori che io sappia che ha utilizzato materiali documentari, proprio quelli della Fondazione Feltrinelli di Milano, secondo me non a caso era uno straniero, ed era un inglese, Robert Lumley, che aveva fatto un bel volume che credo in originale si intitolasse Culture della rivolta, una roba del genere, editore italiano, sciaguratamente ne ha fatto un dal 68 agli anni di piombo, e vabbè, è un'altra cosa, ma insomma Però era un'ottima lavoro, tra l'altro una ricerca di dottorato inglese su quei temi, in un periodo in cui sappiamo benissimo che, stiamo parlando della seconda metà degli anni Ottanta, che chi facesse un dottorato o si avvicinasse comunque, diciamo, al mestiere di storico veniva in camera caritatis dissuaso dal volersi occupare di questi temi. Perché ritenuti maturi, perché ritenuti sostanzialmente storiograficamente poco consolidati. Ecco, secondo me è motivo deve essere motivo di orgoglio per chiunque abbia lavorato in questi vent'anni a questo lato, che oggi una cosa del genere non si può più dire. Oggi ci sono ragazzi giovanissimi che fanno ricerche di dottorato sugli anni 68, e lo fanno forse meglio, secondo me, per alcuni motivi chiari, perché non hanno quel problema di elaborazione alle spalle, eccetera. Ecco, diciamo, sicuramente quindi è un motivo di soddisfazione che mi fa piacere sottolineare, perché è veramente cambiato molto, e questo lavoro fatto ne dà conto. Ora non ricordo quanti sono gli istituti conservatori, sono più di 100. Tra l'altro, una cosa che credo vada sottolineata è che sono segnalati qui anche gli archivi pubblici, cioè ci sono gli archivi di Stato. Da alcuni anni, tra l'altro, una parte almeno del materiale è consultabile. Un paio di anni fa, tra l'altro, è uscito un volume, Autobiografia del 68 di Giuseppe Carlo Marino, che è a mia conoscenza il primo lavoro su questi temi impostato rigorosamente come se uno studiasse De Pretis, la sua... cioè si è chiuso all'archivio centrale dello Stato, ha visionato tutta una serie di fascicoli e poi ha detto: mi fermo qui perché da qui in poi non ho più potuto vedere la documentazione. Poi in realtà non lo fa del tutto, perché si fa prendere la mano e va oltre, e lì, però vabbè, questo non è l'argomento della cosa. Però diciamo, i motivi di soddisfazione direi che sono tantissimi. Al tempo stesso c'è da sottolineare l'enorme difficoltà, però, dal punto di vista di chi fa ricerca storica, nell'uso di questo tipo di documentazione, proprio per la tipologia dei documenti, per il modo con il quale i documenti tra l'altro sono stati raccolti, e in questo caso non sto parlando degli archivi di Stato, dove uno trova i documenti nelle serie, nelle carte di polizia, non solo, ma ci può trovare le carte di polizia. Negli istituti privati di conservazione le cose sono andate spesso in maniera un po' contraddittoria, perché alcuni istituti hanno raccolto delle carte senza essere in grado sempre di indicare esattamente chi era il raccoglitore, come diceva Leonardo. Non tanto o non solo per una carenza di coscienza archivistica, che sicuramente c'è stata e se ne è parlato a lungo, ma anche per l'atteggiamento di chi donava queste carte, per il fatto che molte persone ritenevano una sorta di dovere civile, diciamo, non buttare via quello che avevano in casa, volantini, materiale grigio, raccolte di giornale, a volte quaderni, eccetera, eccetera, e quindi cercavano degli istituti disponibili a conservarli. Però non gli andava, e non ritenevano assolutamente importante che figurasse il loro nome. Perché, o per understatement, ma non credo, ma per un tipo di cultura del quale bisogna tenere conto, e cioè la sensazione che quello in fondo non era materiale che avessero prodotto loro. Loro l'avevano raccolto, era l'espressione, diverso è il caso ovviamente di quaderni, di appunti, ma dato che la stragrande maggioranza di questo materiale consiste di volantini, testi complessi, ciclostilati, giornali, eccetera, eccetera. L'atteggiamento era quello di dire: quella è l'espressione di un movimento collettivo, io non c'entro niente, come le ho tenuti io, le hanno tenuti altre migliaia di persone, il fatto che io oggi le versi lì è un fatto del tutto insignificante. Questo sicuramente è un errore, noi vediamo nella base dati che invece ha un'importanza notevole il fatto di sapere che quel tipo di documentazione l'ha data un signore, una signora particolare con una sua storia, una sua cultura, una sua estrazione sociale, un suo percorso politico e via dicendo. Però è anche evidente che la complessità di questi archivi rende il lavoro dello storico su questi temi di una difficoltà estrema, proprio per, diciamo, intanto la vastità della documentazione, la ripetitività, la difficoltà di stabilire a volte chi è l'autore del documento, anche quando il documento è ciclostilato. Sì. Quasi sempre, certo. Ma insomma, sono cose direi abbastanza ovvie. Due piccole osservazioni ancora, un po' banali forse, ma credo vadano fatte, che sono rilevabili da chi, se uno si attacca in internet e guarda questa cosa, così come se sfogliava la guida, e cioè un forte squilibrio territoriale nell'Italia, e cioè il sud Italia è rappresentato molto, molto poco. Allora c'è da domandarsi se questo voglia dire che i movimenti degli anni 60 e 70 hanno prodotto di meno in quelle realtà, forse sì, rispetto a Milano e Roma sì, ma non credo che sia solo per questo, è per dei meccanismi più complessi che attengono proprio alla sedimentazione della documentazione, alla conservazione e via dicendo. Questo però è empirica, balza agli occhi, diciamo, questo squilibrio. La seconda cosa che balza agli occhi è anche lo squilibrio che c'è in questo tipo di documentazione tra un periodo che abbraccia la seconda metà degli anni 60 e la prima parte degli anni 70, in cui la documentazione è veramente ricchissima e su certi episodi anche, credo, pressoché esaustiva. E invece, direi, la seconda metà degli anni 70 è documentata molto meno. Perché è andata molto più dispersa, perché erano venute meno anche, diciamo, le organizzazioni politiche maggiori alle quali buona parte dei protagonisti erano legati, quindi non è un caso che questa documentazione io ho presenti alcuni fondi conservati a Torino. Beh, insomma, l'occupazione di Palazzo Campana, le lotte alla Fiat tra il 69 e il 73, c'è di tutto e di più. Perché questi signori che hanno versato le loro carte erano militanti di Lotta Continua, di Potere Operaio, del collettivo Lenin, che era una piccola formazione poi confluita, però molto presente soprattutto alla Fiat Mirafiori, poi confluita in Avanguardia Operaia. In genere persone protagoniste già dei movimenti, diciamo, relativamente adulti più o meno, già nel 67-68, persone che nella fase invece di declino e di crisi della nuova sinistra, alla metà degli anni 70, in genere hanno cessato di fare attività politica. Sono molti meno invece le persone più giovani, anche solo di pochi anni, un po' più giovani, che non è che manchino, ma sono relativamente meno presenti, e quindi anche questo è un problema, cioè i fondi principali che io conosco sono ricchissimi, ripeto, per quanto riguarda alcuni anni. Sulla fine degli anni 70 la documentazione diventa molto più frammentaria, perché era oggettivamente anche nei meccanismi di produzione di quella documentazione stessa. Un'ultimissima osservazione, poi fermo perché mi sembra che sto già parlando troppo. Detto tutto questo, e espressa quindi questa grande soddisfazione per materiali che oggi ci sono, cioè nessuno oggi può usare come alibi, se si avvicina a questi argomenti, ma la documentazione dov'è? Documentazione, guarda, c'è. C'è, è tantissima, è ricchissima. Io non so se esista un campo di indagine storica in cui siano stati realizzati strumenti di indagine di questo tipo. Cioè, negli istituti della Resistenza una volta si parlava delle banche dati, delle bibliografiche e poi di altre banche dati. Mi pare che in questo campo di studi stiamo andando addirittura oltre, stiamo creando delle cose grandissime. Quindi, ripeto, di alibi per chi si voglia occupare di queste cose credo proprio non ne esistano più, anche se lacune nella documentazione sono comunque fortissime, e segnalerei in particolare, perché è una cosa che qui non compare molto, i problemi che riguardano le collezioni di periodici. Oggi in moltissime biblioteche pubbliche, anche civiche, eccetera, è possibile trovare raccolte dei periodici maggiori, diciamo, della nuova sinistra, che l'Italia è stato un caso unico nel mondo. In alcuni anni ci sono stati qui 3 quotidiani espressi dall'estrema sinistra, in nessun altro paese del mondo è successa una cosa del genere. Però della miriade di pubblicazioni minori è un po' un disastro. Qualche tempo fa ho seguito una ragazza che voleva fare una tesi di laurea su Renudo, che non è neanche una delle pubblicazioni minori nel campo della... ha avuto delle difficoltà notevolissime. Alla fine poi c'è anche un sito che te li compri e te li mandano, però in tutte le biblioteche pubbliche di Torino, che non è poi, adesso siamo un po' decaduti da quando eravamo capitale, però non è l'ultima delle città italiane, beh, insomma, in tutte le biblioteche torinesi si trovava un numero qui, un numero là, ma chi volesse fare una storia di Renudo in quel momento cruciale che sta tra il Parco Lambro del 76 e il 77, una cosa anche di un certo interesse storico, mancavano i numeri della rivista. Allora, il discorso sui periodici, secondo me, è un discorso a sé, ma di notevolissima importanza. La ricostruzione di raccolte di periodici dovrebbe essere, secondo me, un impegno anche per gli istituti, anche degli istituti privati di cultura, un impegno specifico. Chiuderei però su un'osservazione di tutt'altro genere, e chiudo davvero, e cioè che, così, opinione del tutto personale dal punto di vista della storiografia su questi temi. Cioè, adesso che sono passati, ripeto, 20 anni, che abbiamo tutta questa documentazione così ricca, ci rendiamo anche conto che l'avere a disposizione migliaia e migliaia di documenti non di per sé non fa una buona storiografia. Cioè, un certo feticismo anche rispetto alla disponibilità di ci sono i documenti, quindi si può fare la storia. Questa mi sembra un'immagine, personalmente mi sembra un'idea della storiografia un po' ingenua, perché a me pare che, per quanto ormai la produzione su quegli anni sia vastissima, mi pare che le fondamenta di questi lavori siano ancora molto mobili, nel senso che non esiste ancora, mi pare, una sufficiente convergenza di giudizi tra gli storici su elementi fondamentali, dalla periodizzazione all'uso dei concetti. Vediamo ancora che oscilliamo tra un'idea del 68 breve, quella stagione legata al movimento studentesco che ha innescato un mucchio di cose, ma che poi si chiude sostanzialmente già nel corso del 1968, al massimo agli inizi del 69, e poi dopo è un'altra storia. Questa era un po' l'impostazione di Peppino Ortoleva. Poi nell'introduzione alla ristampa 10 anni dopo ha attenuato un po' il giudizio, ma sostanzialmente il suo volume rimane così. E invece quella considerazione degli anni 68, termine che veniva dalla Francia, no? Con dei lavori che tra l'altro hanno avuto anche una certa importanza dal punto di vista anche archivistico, della segnalazione di lavori di Michel Perrault, mi sembra, no? Ecco, oscilliamo dal punto di vista anche delle terminologie che si usano, dei concetti che si usano, per cui non c'è grande concordanza tra gli storici su molti problemi, e noi lo vediamo anche dal punto di vista poi interpretativo, in cui mi pare che oscilliamo ancora in maniera notevolissima, insomma, tra l'idea cioè o tutto in negativo o tutto in positivo, ancora con una rielaborazione faticosa del proprio passato da parte un po' anche della società in cui viviamo, in cui per un verso il 68 è stata la rovina, tutto sommato, la rovina della famiglia, la rovina di un certo, diciamo, i più benevoli possono dire è stato una rottura inevitabile, però si è rotto un equilibrio e non se n'è più sostituito un altro, diciamo grosso modo, e chi invece per contro suggerisce un'idea più in positivo, direi, improntata però in genere a quello che in filosofia si chiama eterogenesi dei fini, no? Cioè, allora questi giovani volevano fare la rivoluzione, volevano fare, però poi in realtà hanno prodotto un miglioramento nei rapporti sociali, nei rapporti tra i sessi, all'interno delle famiglie, sui luoghi di lavoro. Non ci si alza più in piedi in classe quando entra il professore. Poi adesso qualcuno dice: no, beh, magari sarebbe meglio ricominciare, perché è venuto meno. Adesso un conto è non alzarsi in piedi, un conto è tirargli dietro di tutto al professore. Cioè. Comunque, no, a parte le battute, c'è questo, mi pare che siamo a questo punto, e cioè questo è un campo di indagine storica che ha ancora, io credo, delle fondamenta su cui lavorare moltissimo. E io personalmente credo che una cosa che non va mai dimenticata, ma a volte mi pare che, diciamo, anche nelle opere di storia sugli anni 68 invece finisca col rimanere un po' sullo sfondo, è il lavoro sui contesti, un po' come dicevi anche tu chiudendo, lavorare sui significati che le parole hanno, perché oggi direi che è come sfondare una porta aperta, cioè se uno prende in mano non solo quei quadernetti che scrivevi quando eri a Torino, ma uno prende un documento politico del 1972 e sembra delirio allo stato puro, cioè non... posso raccontarvi questo piccolissimo episodio e poi chiudo veramente. A Torino qualche mese fa abbiamo presentato un libro che era dedicato alla figura di Marcello Vitale, che era un ragazzo morto in un incidente d'auto e al quale è stato dedicato un fondo archivistico. Questo volume, che era un po' il racconto della vita con un po' di documenti che in realtà si è tenuta la famiglia, giustamente, non ne ha neanche dato copia, insomma. Il lavoro di raccolta di documentazione e di contestualizzazione è stato affidato per decisione della famiglia, una scelta saggia credo, a una ragazza di 23 anni, la quale ha lavorato benissimo, ha messo insieme questo. Poi quando c'è stata la presentazione, questa ragazza è venuta dal cuore di dire che lei una cosa che l'aveva stupita tantissimo, a cui non era riuscita a trovare veramente una risposta. Cioè lei aveva visto lettere di questo ragazzo, si era fatta l'idea che Marcello Vitale fosse un ragazzo di un'intelligenza straordinaria, con una vivacità intellettuale, con interessi che spaziavano dall'economia alla musica, alla filosofia, eccetera, uno che poi ha fatto la scelta di andare a lavorare in fabbrica. E poi la domanda su cui questa ragazza chiuse, ha detto: ma come poteva un ragazzo così intelligente credere alle cose che scriveva nelle lettere alla fidanzata, alla madre? Cioè credere che da lì a poco ci sarebbe stato un rivoluzionamento dei rapporti sociali tali per cui lui usava termini come comunismo, come fosse una cosa, non una prospettiva storica che uno dice, ah no, c'è la dialettica, allora, no, no, una cosa che, voglio dire, qui gli operai, gli studenti tra poco sono la classe dirigente di questo paese, in forme che non sappiamo. E devo dire che, benché la platea che c'era presente alla presentazione di questo libro fosse fatta tutta da 68ini, l'abbiamo fatta a Palazzo Campana, quindi c'erano tutti con i lucciconi agli occhi, nessuno ha avuto il coraggio neanche di provare a rispondere all'interrogativo di questa ragazza, perché era una domanda, secondo me, senza risposta per molti. Allora lì sì, secondo me, un lavoro sui contesti culturali e se si vuole uscire da quella dicotomia di rappresentazioni o tutto in positivo o tutto in negativo, ma fare un lavoro degli storici, secondo me quello è un versante. Avere materiali di questo tipo e avere strumenti di questo tipo sicuramente, appunto, non ci dà nessun alibi sul fatto che non ci sia la documentazione, questo di sicuro. Scusate la lunghezza. Sì, si sente, sì. Si sente, sì, sì. No, per niente. Perfetto. Allora, Allora, aspetta, facciamo uscire. Io intanto volevo ringraziare Scavino per le cose ultime che aveva detto, perché secondo me il problema di ridiscutere le categorie con cui si studia la storia del 68, dei movimenti, ma del 68 in particolare, è fondamentale. Certo, non lo possiamo fare qua, visto. A me interessa in modo particolare perché io mi occupo del 68, sto lavorando sul 68, sto lavorando anzi sulla generazione del 68, sul modo in cui si è andata costruendo, quindi, come dire, con un'angolatura particolare, e sono quindi eternamente debitrice dal 2003 alla vostra guida e continuo a esserlo agli archivi dei movimenti, naturalmente, perché sono, appunto, ho girato l'Italia, andare a cercare i volantini, i materiali, eccetera, eccetera, seguendo le indicazioni della guida e poi dell'archivio online. Peraltro sono venuta a Torino all'archivio, al tuo centro Gobetti, eccetera, eccetera. Quello che volevo dire, essendo appunto stata interpellata perché mi occupo del 68 e quindi sul problema delle fonti nella storiografia del 68, l'ha affrontato anche questo Scavino prima, io avrei delle precisazioni. Intanto partirei, scusa, dalla fine, dal tuo giudizio sul lavoro di Marino. Allora, Giuseppe Carlo Marino l'ha pubblicato nel 2004, ha fatto questa biografia massiccia, 500 pagine, si chiama Biografia del 68, eccetera, lavorando sulle carte d'archivio. Poi a ritroso voglio dire delle cose, però preciserei subito che intanto non è il primo, nel senso che in realtà Krainz nel Paese Mancato è quello che anzi stabilisce il canone a quel punto, perché c'è stata l'apertura dell'archivio delle carte del Ministero degli Interni, del Gabinetto, le carte di Polizia, la categoria G10, come si chiama, eccetera, eccetera, sì, e poi anche altri, no, che ci hanno lavorato. Marino ha lavorato solo su quella fonte, non solo, ma ha utilizzato poi i volantini, cioè diciamo la letteratura grigia, quello che il movimento ha scritto, sulla base di una scelta che non è stata fatta da lui, cioè che è andato negli archivi a scegliere, a vedere il materiale, no? E poi scegliere quello che gli sembrava più significativo, ma ha scelto i volantini, i documenti, eccetera, che erano allegati alle relazioni dei prefetti, ai comunicati dei questori, eccetera. Quindi poteva fare una bellissima analisi come dire, del modo in cui il Ministero degli Interni, i suoi uomini, eccetera, vedevano il 68, ma non è, come dire, un incrocio di fonti scelte da lui, quindi comunque. Lui è vero, ha fatto quindi un lavoro solo sul materiale d'archivio che a me rende perplessa da questo punto di vista. No, ma io non ne voglio parlare male, voglio discutere in merito a come, no, come è venuto fuori la storiografia sul 68 e come ha utilizzato le fonti. Allora, secondo me l'88, come dici giustamente te, è il momento di svolta, nel senso che purtroppo, come diceva Giovanni Contini prima, il 68 e la produzione sul 68 segue questi anniversari, no? E i decennali sono significativi perché in quel momento gli editori lo mettono al centro della propria politica editoriale, i grandi editori, e quindi fanno i libri sul 68. Poi in mezzo, a un certo punto, la storiografia si è autonomizzata anche attraverso altri canali. Però dicevo, l'88 è una svolta. Prima la storiografia non era, cioè il 68 non era un tema storiografico. Nel 68 ci sono i libri degli intellettuali, dei politici come la Rossanda, e i libri dei sociologi che vengono dalle belle cose francesi di Turenne, di Morin, di Aron, eccetera, eccetera, che quindi arrivano in Italia prima nella saggistica, diciamo, delle riviste come Quaderni Piacentini, Problemi del socialismo, eccetera, ma sono sociologiche. Le cose di Donolo, di Ciafalloni, Donolo e Ciafalloni insieme, anzi, scrivono il famoso Contro la falsa coscienza del movimento studentesco nel 69, che hanno quest'occhio qua. E peraltro non c'è ancora una letteratura storiografica. Nel 78, a 10 anni di distanza, appunto, in cui, diciamo, il movimento si sta chiudendo ma è in crisi, parlano o più adulti, più che trentenni, e scrivono, voglio dire, in questo senso, i protagonisti del 68. Quindi ci sono i libri di Viale, i libri di Boato, i libri di Ricci, eccetera, eccetera, sul 68, ma non hanno note, non hanno apparato, come dire, si fondono, hanno un forte taglio interpretativo, c'è, cioè, la loro grande intelligenza, diversa tra le varie persone, ma tutto è nella loro testa, cioè non c'è un riferimento, eppure fanno una storia del 68. Cioè, se tu guardi l'indice del libro di Viale, il 68 tra rivoluzione e restaurazione, è un indice che segue le tappe di una cronologia, di una periodizzazione che lui in qualche modo ha costruito sul racconto che il 68 si sta facendo, ha fatto e sta continuando a fare su di sé. E quindi, diciamo, ancora lì non c'è storiografia. Nell'88 secondo me c'era storiografia, e qui riprendo degli appunti, perché cominciano ad arrivare le fonti, e questo è il problema per cui è molto importante il lavoro della guida e poi il lavoro degli archivi dei movimenti, perché le fonti hanno cambiato il modo di guardare il 68, liberandolo in parte dal racconto di se stesso, in parte minima e molto contraddittoria, e poi vedremo. Cioè, nell'88 arriva intanto la storia orale. Prima qualcuno aveva usato delle interviste orali, no? Ricci aveva intervistato lo Stagno, eccetera, ma non aveva nessuna strumentazione critica, quella che la storia orale, chiamiamola così per capirci. Poi Contini qui, ho paura del suo che ci ha parlato appunto giustamente a lungo delle fonti orali, ma comunque arriva la storia orale, arriva con la Passerini, il libro di Fraser usa per l'Italia le fonti orali della Passerini, che poi fa anche autoritratto di gruppo, in cui, come dire, lancia un esperimento, diciamo, in cui unisce soggettività, storia orale, eccetera, ma comunque lei per il libro di Fraser ha usato in modo sistematico e rigoroso le fonti orali. Il libro di Fraser si chiamava 1968, Student Generation in Revolt, ed è appunto dell'88. In quel c'è anche un altro che usa le fonti orali, però come giustamente disse Gallerano, era troppo fissato alla propria storia e non era stato capace di uscirne, che era Romolo Gobbi, che ha fatto tutto sulle fonti orali, poi l'ha lasciata di studio dell'esistenza, ma il libro non funzionava, diciamo, era tutto interno ed agiografico, diciamo, autocelebrativo, eccetera. Si comincia a usare la stampa coeva e quindi i giornali, e quindi le cronache dei giornali, e quindi in modo sistematico. Quanto alla letteratura grigia, cioè volantini, documenti, eccetera, si comincia a usare, e nella raccolta della cura di Poggio, che tu citavi prima, nei molti articoli, fra cui i saggi, tra cui quello di Marco, eccetera, lì già qualcuno comincia a mettere in nota da dove prende questi volantini, però ha ancora tutto un carattere artigianale, sono eccezioni perché... secondo me per una duplice ragione. Primo, perché gli istituti di conservazione di questo ancora sono rari, c'è la Fondazione Feltrinelli, c'è appunto in Poggio c'è un articolo su Lucca molto bello in cui c'è il fondo di documentazione, come si chiamava? Adesso mi sfugge esattamente il nome, ma insomma il fondo di documentazione di Lucca, e per cui viene usato, ci sono i fondi con i nomi, i cognomi, eccetera, eccetera. Ma per il resto c'è ancora qualcosa di artigianale nell'uso appunto di questa letteratura grigia. Dicevo per due ragioni: uno, perché gli istituti non ci sono ancora, non c'è un'organizzazione, non ci sono stati i versamenti. La cosa che tu avevi iniziato a Roma era stata appunto straordinaria, è passata per varie sedi fino ad arrivare adesso all'IRSIFAR, no? Attraverso un vario percorso, le memorie di carta e quindi tutti i fondi dei romani che tu avevi raccolto. La seconda ragione secondo me sta più in un'idea patrimoniale del 68, cioè la generazione del 68 ha cominciato allora e ha continuato ad avere l'esclusiva sul racconto del 68, quasi totale, cioè c'è qualcuno un po' più giovane, era un studente medio tutt'al più, però aveva a che fare col movimento. C'è proprio appunto questa concezione patrimoniale, per cui i volantini sono quelli che uno c'ha a casa, c'ha a portata di mano, e sono quelli giusti, quindi, perché ce l'hai lì, sei te che lo sai. Oppure ce l'ha un amico, tu ti rivolgi all'amico perché sai che quello stava in un altro gruppo, in un'altra rete dell'università, in un'altra facoltà, e quindi sicuramente dovrebbe avere quel volantino che tu ti ricordi. Come dici te, i volantini poi non sono democratici, in una giornata sola ne uscivano 6 di volantini. Qual è il volantino significativo? No? Allora filologicamente devi andare a vedere qual è la linea politica che sta dietro, oppure li sottrai a questa cosa e cominci a guardare appunto il lessico, il contesto, eccetera. E secondo me questa è la cosa. Concezione patrimoniale che perfino nel bellissimo libro di Ortolevo, che secondo me rimane uno dei libri più belli sul 68 che sono stati scritti in Italia, più interessanti, eccetera, c'è l'appendice documentaria dei documenti eccetera in fondo, ma sono scelti perché sono belli, perché sono significativi, perché parlano da sé, non sono fonti su cui riflettere. Poi lui scrive un bellissimo saggio sul 68, non solo in Italia ma in Europa e negli Stati Uniti, ma la fonte è ancora, l'idea che i documenti siano fonte da guardare non è ancora passata. Naturalmente in quell'88 poi escono le cose di Mangano bellissime sulla cultura del 68, ma lui allora usa le riviste, durante e dopo il 68 usa le riviste, esce l'Orda d'Oro di Balestrini e Moroni, che però sta dentro un discorso del movimento sul movimento, quindi diciamo ancora un movimento che parla di sé, e poi c'è la memorialistica, i vari, Capanna, Mordenti, Scalzone, eccetera, che vabbè, è un discorso a parte, non è storiografia, intanto questo lo stabiliamo così, d'ufficio. Da allora parte una storiografia più interessante. La raccolta dei saggi per la cultura dei luoghi del 68, in cui De Luna usa il Fondo Vitale, e lo cita, però già Barbagallo su Napoli cita qualche volantino ma non lo mette neanche in nota, cioè c'è ancora un uso frammentario, io direi sessantottino, delle fonti. Non lo dico in senso dispregiativo, perché insomma, però si capisce che vuol dire, c'è una piccola vena, come dire, critica. Però diciamo parte una storiografia sul 68 che segue prevalentemente due filoni, a parte diciamo la saggistica politica, la Sidney Tarro, cioè che cerca di inserire il 68 su un arco più lungo, di tenere conto della crisi, eccetera. E i due filoni sono la storia locale, che finalmente potrebbe costituire un tassello, locale vuol dire delle singole università, delle singole occupazioni, che potrebbe costituire quindi un tassello di una ricostruzione del 68 italiano che sfugga appunto al racconto 68 secondo i canoni già stabiliti, diciamo, dai protagonisti, e l'altra una saggistica dal punto di vista tematica più innovativo, tematico più innovativa, che guarda la soggettività dei singoli e che guarda quindi agli aspetti emozionali, eccetera eccetera, e che usa le fonti orali. Passerini insegna, Passerini continuerà, ma cominciano anche altri. Uno è Lamley, appunto, che usa solo fonti orali, prevalentemente fonti orali, poi usa anche la letteratura grigia, usa anche la stampa, naturalmente usa letteratura di seconda mano, ma è fondato su quelle idee lì. Il 98 è un anno, da questo punto di vista, diciamo, rapporto fonti-storiografia meno interessante, però c'è il libro che si pensa già che si possa fare un riassunto, del 60, cioè un compendio del 60, della storia del 68, infatti esce il libro di Marcello Flores e De Bernardi, che è un libro sul 68 sulla base delle cose che sono state fatte. La seconda parte, quella di De Bernardi, sul 68 italiano, sulla base di quello che c'è. Alla vigilia del 2000 l'Archivio Centrale dello Stato apre appunto l'accesso ai fondi del Ministero del Gabinetto, che, del Ministero degli Interni, che quindi rende possibile l'accesso a questi fondi, e cambia e si costruisce il canone che fa Krainz, cioè letteratura grigia, e lui si usa quella dell'IRSIPAR, diciamo, depositata all'IRSIPAR, che è la tua, insomma, Marco, che è arrivata fino lì, la stampa quotidiana, lui usa il giorno, e le fonti prefettizie, questori, eccetera eccetera, e costruisce il canone. Poi appunto Marino l'anno dopo pubblica il suo massiccio biografia. Nello stesso 2003 esce La vostra guida, di cui appunto io continuo a dire che sono debitrice da allora di sapere dove trovo delle cose e dove non trovo altre. Se uno se la guardava riga per riga capiva dove doveva andare, se a Bologna, a Torino, a Milano, oppure non risultava il tuo immagine del presente, che era a Roma, anzi a Tor Vaianica. A Tor Vaianica, in un posto pazzesco, è un pazzesco, ci siete andati, ecco, perché appunto è un posto, un personaggio straordinario, eccetera. Naturalmente questa storia non finisce qui, si continua, voglio dire, l'ultimo libro sul 68, A colpi di cuore, storia di 68, storie di 68 di Anna Bravo, segue altri percorsi, meriterebbe un discorso a sé, aspettiamo la fine del decennale, qua, del quarantennale per farlo. E quindi direi che c'è però questo processo, io non so se sto già andando oltre perché vorrei dire altre cose, quanto c'ho ancora? Vado. Vorrei dire delle cose che poi si riallacciano a quello che è stato detto prima. Intanto, cosa raccontano queste fonti e cosa potrebbero raccontare? Allora, che raccontino, brevemente raccontano, le fasi del movimento consentono una periodizzazione, quella di cui parlava Scavino, e una comparazione fra realtà locali, sia dal punto di vista delle pratiche contestative, quindi le assemblee, le cose, le manifestazioni, come si fanno, eccetera eccetera, come funzionano da una parte e dall'altra, sia dal punto di vista della circolazione dei temi e delle parole d'ordine. Poi consente ovviamente una ricostruzione della cultura e delle culture del movimento. Per esempio, emerge chiaramente dalla letteratura grigia che quello che tutta la storiografia attribuisce al movimento, le sue radici culturali fuori dall'Italia, non dentro la storia del marxismo eterodosso, del dissenso cattolico, eccetera, ma fuori dall'Italia, cioè da anzi dal manifesto di Port Huron del 62, all'agenda per una generazione, agenda for a generation, al movimento di Berke del 64, e poi Provos, e poi situazionisti, tutto quello che tanta storiografia continua a raccontare giustamente come radici culturali del 68, in realtà non emerge né con le parole, né nelle parole, né nei temi, non c'è. E questo perché? Cioè, che cos'è che fa tacere? Perché il problema è ciò che quelle fonti tacciono, ciò che il movimento ha scritto di sé tace una molteplice realtà che invece fa parte del movimento. Un'altra cosa che sicuramente dicono quelle fonti è la quotidianità dei giovani militanti. Qui cito i quaderni di Giovanni Maggia. Giovanni Maggia è un giovanissimo studente di Torino, che tu conoscerai, immagino, molto bene, che ho peraltro intervistato adesso. Il sindaco di Ivrea, personaggio... No, adesso, allora, adesso purtroppo no, cioè, era giovanissimo allora, nel senso che era una matricola nel 67-68 e poi lui scrive questi quaderni dal maggio del 69 a luglio del 70. Sono quaderni a quadretti che lui riempie con calligrafia chiarissima e fa i verbali di tutte le riunioni di un gruppo che si chiama il Nucleo d'Acciaio, che poi saranno quelli che faranno lotta continua, insomma, che sono Bobbio, Viale, eccetera, eccetera, Laura De Rossi, e gli incontri con gli altri gruppi. È già 69, quindi già ci sono delle configurazioni di reti di gruppi. Quello che è interessante, al di là di tutto quello che ci racconta di come si costruisce una rete, di come è nata lotta continua, eccetera, è quello che tra le pieghe di questi verbali emerge della sua vita quotidiana. Allora ogni tanto c'è l'elenco delle cose che deve fare, e allora c'è andare da Giovannino, festa della mamma, regalo per la mamma, e poi uno guarda e dice ma è maggio, quindi c'è pure la festa della mamma, forse glielo fa il giorno della festa della mamma, e poi il dentista, eccetera, i programmi di esame, e poi questa cosa delle... settimanale degli appuntamenti, delle riunioni, e le riunioni sono tre al giorno. La prima comincia la mattina tardi perché sono studenti, quindi comincia a mezzogiorno, la seconda è pomeriggio, la sera alle 21 ce n'è un'altra, e lui là, e ognuna su temi diversi, e già nel 69 in posti diversi all'università, non tutte all'università, ma che cosa? Che palle. No, è questo il problema, che si era, invece apparentemente sembra una palla, in realtà la vita era piena di questa cosa, e nella memoria questa è la famosa felicità pubblica di cui parlava allora, intuendo una cosa, Hannah Arendt. Quindi non è che la cosa pazzesca è che non è che palle, che da lì risulta che palle, ma lì c'era una passione, cioè c'era anzi una... contentezza che però non traspare, o comunque così la raccontano nelle memorie. Adesso vediamo se anche te la racconti così. E quindi questo è significativo. Traspare anche appunto la sua quotidianità, il fatto che la sua vita era piena di queste cose. Traspaiono anche altre cose più intime che non sto qui a raccontare, però c'è una vita nelle pagine di quel quaderno che lui ha dato, quindi sa bene, infatti quando io l'ho intervistato si ricordava perfettamente che cosa ci fosse in quel quaderno. Quindi diciamo questa letteratura grigia racconta delle cose della quotidianità, però fino adesso noi l'abbiamo usata così, però secondo me non bisogna fermarsi qua, e qua mi riallaccio a quello che avete detto tutti e due sul lessico, e faccio un unico esempio. Siccome è tardi non faccio tutto lo sproloquio che mi è abituale sul fatto che nel 68 confluiscono culture diverse e generazioni diverse, prevalentemente due, quella dei più grandi che faranno i leader e quella dei più giovani che stanno, come dice Portelli, seduti in fondo all'assemblea nelle ultime file dei cortei, non necessariamente ma dall'idea. La confluenza di queste due culture il problema è che quelli più grandi faranno i leader. E quindi sono loro che parlano, loro che scrivono i volantini. Beh, c'è un'espressione che sicuramente questi leader, che erano quelli che avevano fatto politica prima, sia nelle organizzazioni universitarie, nei partiti, nelle federazioni giovanili, sinistra, cattolici, liberali, socialisti, all'inizio in alcune località, addirittura in alcune località, in alcune università addirittura dei personaggi della destra, beh, ci sono delle parole comunque all'interno della storia del marxismo sicuramente che stridono e che imbarazzano, così come testimoniano loro stessi quando ti raccontano. Una è potere studentesco. Cioè, cosa ha a che fare potere studentesco con la tradizione della riflessione sul marxismo precedente? Con Quaderni Piacentini, Giovane Critica, Il potere operaio Pisano? È un'espressione che doveva... che in qualche modo anzi oltraggiava quella cultura, che veniva dall'altra cultura, da quella dei giovani. E in una sua intervista appunto recente che gli ho fatto, Franco Russo a questa domanda dice sì, in effetti all'inizio era imbarazzante, eravamo diffidenti, e poi c'è tutto, capiamo che quella è la parola giusta, quella è la parola d'ordine giusta, che dice che per la prima volta gli studenti non parlano come piccolo borghesi che poi devono fare o l'avanguardia della classe operaia o invece devono essere come dire, cooptati da un partito, ma parlano perché stanno dentro un'istituzione e proprio come studenti dentro quell'istituzione possono attaccare la struttura autoritaria, eccetera. Quindi, secondo me, la storia del lessico di questi volantini ci può, per esempio, per il mio punto di vista particolare, cioè io sono molto interessata al problema generazionale, ci può dire l'incrocio fra le generazioni, cioè, e ce lo può dire così. Ultima cosa, la storia orale, non dico nulla perché sa tutto Contini, io mi vergogno davanti a lui, però io credo una cosa, che la storia orale intanto ci ha dato dall'88 accesso a quella dimensione della soggettività dei singoli, della loro esperienza emozionale che non risultava da nessuna parte, che tutto quello che questo movimento ha detto, ha scritto, non faceva trasparire. La Passerini ha detto, molti se lo sono posti, anche te nel saggio della raccolta di Pavone, a cura di Pavone, la Passerini, Gozzini, eccetera, tutti si sono detti, ma perché questo silenzio sull'aspetto emozionale? Allora Passerini risponde, perché il linguaggio del 68 è un linguaggio ironico, sprezzante, più intellettuale che sentimentale. Sprezzante no, l'ho aggiunto io in questo momento, è sbagliato, un lapsus. Più ironico che sentimentale. Beh, questa è la prima risposta, ma secondo me su questo bisogna andare avanti, perché si può pensare che i volantini, d'accordo, tutto quello, avessero il marchio della politica, del politichese, di tutto, ma io poi vado a vedere l'archivio di Pieve di Santo Stefano. Allora, l'archivio di Pieve di Santo Stefano, che come sapete è l'archivio di Aristico Nazionale, eccetera, dove tutti mandano i propri... I ragazzi degli anni 70 hanno mandato centinaia di diari, autobiografie, eccetera. Bene. Del 68 ci sono 4, massimo 5, con una come dire, visione un po' allargata, insomma lasciando un po' a rigore, 4-5 diari o autobiografie. No, ma appunto ma viene dopo. Io ho l'idea del 68 breve, contrariamente a te. Quindi, non c'era mica tempo. Appunto, infatti secondo me non c'era tempo, questa era la prima cosa, infatti come si dice non si leggeva nel 68, no. Per quella ragione di prima, quella che tu dicevi, che palo, cioè che la vita era tutta piena di quella specie di essere lì, di quella presenza nel movimento, di quell'esserci comunque sempre. E quindi la domanda è, perché proprio quelli che hanno aperto un modo diverso di far politica, che hanno voluto abolire la distinzione fra pubblico e privato e che in qualche modo l'hanno veramente esperita quella cosa, perché nei fatti l'hanno vissuta come esperienza, o perlomeno se la racconteranno così, ma così è stata per loro, quindi proprio loro tacciono su questa dimensione emozionale, e ne parleranno solo 20 anni dopo, cioè solo 20 anni dopo troveranno le parole per dirla nelle interviste orali, continuano a dirla anche nell'ultima raccolta, quella raccolta da Odradek per il circo Gianni Boso sotto la guida dei Portelli alla gente comune, insomma lì cominciano a dire quello è il centro dell'esperienza del 68. Allora anche questo uno si chiede come mai. Ancora sulla storia orale, ultimo, io credo che la storia orale sia importantissima, per questo vi direi spronate tutti quelli che hanno le registrazioni a farsi vivi, perché non ci sono, io so di istituti della resistenza che hanno delle registrazioni, ma non compaiono lì, voglio dire, perché la storia orale è una grande fonte per tutte le ragioni che si diceva, ma anche per un'altra cosa che forse si può aprire e che peraltro io ho perseguito, che è quella di rendere possibili memorie altre del 68. Lo hanno già altre nel 68. A aprile c'è stato a Leeds un convegno sulle memorie del 68 in cui ci sono state delle relazioni, per esempio sulla memoria del 68 a Parigi nel maggio francese, nel maggio, da parte degli emigrati algerini. Uno storico americano che si chiama Hilvig ha fatto una cosa sull'establishment, la memoria dell'establishment italiano. Nel mio piccolo, nel mio grande, io ho fatto una raccolta, non l'ho fatta io, le interviste le hanno fatto studenti del mio corso, di 45-50 interviste a professori che insegnavano la Sapienza nel 67-68, pensando che ci fosse una memoria altra, una memoria dei docenti, una memoria collettiva dei docenti. Bene, è venuto fuori un materiale di circa 1000 pagine che sarà peraltro pubblicata da Biblink, che sta là in fondo, la signora Biblink, e presto, e che secondo me invece è un materiale importantissimo perché fa capire come si costruiscono memorie altre, E come in quel caso non c'è una memoria collettiva dei docenti, ma ci sono altre appartenenze che sono molto più forti. Quella generazionale non a caso, per esempio i giovani assistenti di allora hanno un rapporto ambiguissimo, ambivalente con il movimento, ce l'avevano allora e ce l'hanno nella memoria, nei ricordi, nei lapsus che fanno, tu ricostruisci l'ambivalenza del loro rapporto col movimento, perché erano giovani, un po' più giovani di loro, gli sfuggivano, gli erano ostili, li consideravano diversi, erano diversi, negavano la cultura di quelli appena un po' più grandi. Ci sono altre appartenenze che sono quelle ideologiche, c'è un problema di fare conti con un ceto che è stato un ceto accademico, che è nel schierato a destra, a sinistra, non importa, comunque sostanzialmente si è dimostrato debole e inconsistente, quindi per tutti questi intervistati c'è il problema di fare i conti con quell'immagine, quindi di difendere e di ritrovare una propria coerenza. Cioè, ci sono delle cose molto interessanti che non dicono il loro giudizio del 68, che non ce ne importa nulla, come non ci importa nulla del giudizio sul 68, non è più quello in discussione. Cioè, in discussione fare una storia sociale, culturale, del 68. Basta, chiudo qua perché l'ho fatta lunghissima.